non riesco a sentire, mi verrai senti barati, porte chiuse con tempo, c'è la vita di vuoti, i sentieri della verità. Quanto di tutto questo carno, sentoso, l'inutile e senza taglioletto senza anima. Chitarra là da questa parte, per favore. Quella chitarra là.